Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo e di Valerio Rucchetti, il nostro regista che ci ha appena dato il via, e di Gloria Guerrera, la nostra redattrice che ci ha appena introdotto la guida illustre di questa settimana. Quindi siamo pronti e salutiamo insieme a voi Monsignor Giuseppe Liberto, benvenuto. Salve. Monsignor Giuseppe Liberto, che è, diciamo così, in tanti abbiamo visto e vediamo in televisione, forse in pochi lo conoscono per nome e cognome, è il direttore di coro e compositore italiano. Ha iniziato la sua carriera musicale come maestro di cappella nel Duomo di Monreale, è stato docente presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo, naturalmente ha insegnato musicologia liturgica nella Facoltà Teologica di Sicilia ed è soprattutto dal 97 maestro della Cappella Musicale Pontificia Sistina, la Cappella Sistina, la quale abbiamo appreso ogni anno fa 600 audizioni per nuovi voci e poi solamente 6 o 7 accettano il duro lavoro dello studente e dell'apprendista cantante. Sì, questo è un problema molto arduo, molto delicato, perché la Cappella Musicale Pontificia Sistina ha non le donne, ma non è che abbiamo niente contro le donne, ma per tradizione, ecco, c'è la scuola puerorum, la scuola dei pueri, e ogni anno bisogna un po' racimolare almeno una dozzina di ragazzi di terza, quarta elementare per la scuola preparatoria e per l'inserimento quindi nell'anno successivo a far parte del coro della cappella. E ogni anno è veramente una sofferenza, soprattutto in questi ultimi anni, una vera sofferenza girare per le parrocchie, per gli istituti, per le scuole cattoliche e trovare realmente poco, o perché i genitori non vogliono impegnarsi, o perché, sa, talvolta, è brutto dirlo, ma è così, la preside non vuole togliere una retta del... Sì, perché la Cappella Sistina poi con le scuole si arrangia da sola, perché... È diciamo un conservatorio prestigioso. Sì, abbiamo appunto quarta, quinta elementare, prima, seconda e terza media. Abbiamo la scuola interna, ogni giorno almeno 3 ore di canto tra tecnica vocale, solfeggio, repertorio, eccetera. Però abbiamo bisogno appunto di questi ragazzi che dicano di sì per quest'arduo e delicato e affascinante compito. Ricordiamo che Renato Rasce ed Alberto Sordi, solo per limitarci a due recenti, insomma, sono ex pueri cantori della Cappella Sistina, sì, sì. Quindi in realtà bisogna avere anche lo sguardo per guardare lontano, per apprezzare il genere. Però di Monsignor Liberto vorrei citare due opere, perché così completano un pochettino anche la qualità della sua guida oggi. Un libro di poesie, Luce che insegue l'aurora, meditazioni poetiche, con la presentazione di Bruno Forte, arcivescovo di Chietevasto, lui sì, che è l'unico teologo italiano tradotto in Germania, e poi le edizioni sono Edizioni Feria, ed è appena giunto anche in libreria, sempre di Giuseppe Liberto, Parola fatta canto, riflessioni su musica e liturgia, libreria editrice Vaticana, anche perché... Tra tradizione e tradizionalismi siamo un po' confusi, anche per esempio capita sui giornali di sentir liquidare le composizioni di Monsignor Liberto come musica classica, mentre in realtà per le cerimonie pontificie sono musiche inedite composte per l'occasione. Sì, moltissime sono musiche inedite composte appunto per le occasioni, soprattutto pensiamo al grande florilegio musicale che dell'anno santo e poi della morte di Giovanni Paolo II, dell'inizio pontificato di Benedetto XVI, e la maggior parte erano musiche scritte per l'occasione. Questo per dire che non lo facciamo discendere dall'empireo, ma lo traiamo anche dalle sue pene, non sentirsi riconosciuto. Da dove partiamo, Monsignore, oggi per questa prima riflessione? Intanto questi due libri che mettono in evidenza un po' il mio stato d'animo, dentro virgolette, letterario, perché non parlo soltanto con le note e con la musica, ma anche con le parole. Quindi le due parole potrebbero essere parola e canto. In fondo il libro delle poesie nasce dallo studio della Santa Scrittura, dallo studio della liturgia, perché penso che un musicista che voglia scrivere sul serio per la liturgia debba conoscere la liturgia, altrimenti fa musica sacra in genere. Musica sacra, dicono i documenti, sarà tanto più santa quanto più scaturirà fuori dalla celebrazione. Ecco allora questo sacro che deve fare il salto di qualità per diventare santo, perché il santo nella liturgia siamo appunto nella sacramentalità, nella santità, tanto, non tanto nella sacralità. Quindi questo libro di poesie nasce dopo, così, in momenti diversi, in momenti vari, dalla meditazione, dallo studio della Sacra Scrittura, della liturgia, dal contemplare la fede, dal contemplare la natura, e così, insomma, escono fuori questi germi poetici. Poesia sembra una parola molto grossa, questi germi poetici. Invece il secondo, questo volume che è uscito da qualche giorno, che poi ho scritto per fare dono ai padri sinodali, perché quest'anno il sinodo era appunto sulla parola di Dio, ho voluto dare appunto questo titolo, Parola fatta canto, ed è una serie di riflessioni sulla musica, sulla liturgia, che mi hanno guidato in questi ultimi anni. Però l'avverto, una seconda parte, Monsignore, le farò fare l'anticlericale insieme a me, perché sulla musica sulla musica arrivata in chiesa, diciamo così, ho qualche teoria. Sì, sì, ognuno deve esprimere. No, perché per esempio si parlava poco fa dell'anno santo, cioè trovo divertente, sì, l'idea che lei abbia così prodotto un libro edito dalla libreria editrice Vaticani che, come notizia, niente male, appunto per dare un riassunto ai padri sinodali, diciamo, quello che è un po' il pensiero conciliare sulla musica e la liturgia, e dal punto di vista, diciamo così, l'affectus fidei, cioè di cui parla, di cui, sì, parla appunto, come si dice in gergo, e anche dal punto di vista oggettivo. Però per esempio si parlava del giubileo, ma io lo lancio così. Io sarei in grado di citarle delle composizioni dell'allora direttore della Cappella Sistina negli anni 50, come ricordo del Giubileo del 50. Del 75 già comincio a fare buca e non mi sarei capace, se non conoscessi appunto, perché poi in realtà è stato anche un giubileo riempita di tanta porcheria, insomma, tra trombe, trompette, chitarre e tamburi. Sì, c'è stato di tutto. Come dice Marco Tavaglio, vado a messa e mi viene voglia di andarci con la pistola. Sì, sì, in fondo l'anno santo è stato un contenitore di mille cose, di mille espressioni artistiche. È chiaro che poi bisogna scegliere fior da fiore, insomma, poi nel giudizio che daranno gli altri. Ma questa, diciamo, strana voglia di latino che sembra ritornare pure nelle preghiere, così una risposta molto breve, non può essere una salutare crisi di rigetto contro tante brutture? Va potrebbe, bene. Potrebbe, no, non è che io abbia niente contro il latino, per carità, poi da buon siciliano mi piace la lingua siciliana e compongo molto bene anche in siciliano. E comunque il fatto di questo, della riemersione del latino, ma intanto la Chiesa non ha mai messo da parte il discorso del latino. Il cielo in una frase di Filippo Di Giacomo e di Giuseppe Liberto, compositore italiano, come si definisce nella sua biografia, e maestro della Cappella Musicale Pontificia Sistina, la Cappella Sistina tout court. un signore, vabbè, ti abbiamo tentato di portarti sui sentieri di un'anticlericalità condivisa, non ci sei caduto, allora ti porto su un sentiero che è più consono alla tua sensibilità. Traggo dal tuo libro di poesie Luce che insegue l'aurora, meditazioni poetiche, un verso di Emily Dickinson, Due abissi. Dietro a me l'eternità, sotto il mio sguardo l'immortalità ed io al loro confine. E qui c'è intanto l'eternità, che è immortalità. Io al confine tra questa eternità che ancora c'è ma non ancora, e questa immortalità che non è abisso, questa eternità che non è abisso, ma è luce intensissima. Io non saprei definire l'eternità e l'immortalità come abisso, perché l'abisso lo coloro sempre di nero, di indecifrabile, di inaccessibile, ma l'eternità e l'immortalità è una realtà che catturo con la mia fede, ed io ci sono dentro, non tanto sono al confine. Non è che voglio criticare la Dickinson, per carità, però il mio sguardo, cioè è quell'abisso che mi infastidisce, perché per me l'abisso è immersione, ecco, è immortalità ed eternità, è immersione nel divino, quindi è immersione nell'amore, è immersione nella luce. No, io l'avevo scelta apposta questa tua citazione, sì, perché poi in realtà abbiamo anche oggi come oggi la testimonianza di un mondo musicale che sul bordo dell'abisso ci cammina, perché si dice la musica in fondo è alterazione anche sensoriale. Ci sono anche dei Menagramo che annunciano ogni giorno che se tu ascolti il rock rischi di incontrare il demonio. Poi vai a Sydney, a Giornata Mondiale della Gioventù, assiste a 450 concerti di musica rock e scopri che c'è un segmento importante di rock che parla di religione a positivo e che nel mondo anglosassone è conosciuto, tant'è vero che gli autori e gli interpreti di quella musica che è stata ininterrotta, il Papa si inseriva in questo, poi certo, gli autori sono conosciuti come le altre, però in Italia non entra, perché di sacro o si parla in modo piuttosto bacchettone o non se ne parla. Cioè non riusciamo neanche a capire appunto la tradizione e la novità che c'è nella tua musica. E siamo il paese del bel canto. Siamo il paese del bel canto, sì. Io partirei in certo modo dalla Pentecoste, quando ecco, parola è musica. Nella Pentecoste tutte le lingue sono assolutamente recepite per incarnare la parola. In un bel libro del patriarca di Antiochia leggo che se Cristo, dice lui, il patriarca di Antiochia, se Cristo venisse oggi qui dove sono io, parlerebbe in arabo. Se Cristo venisse qui dove sono io per ora, parlerebbe in romanesco, tanto per dire, insomma. Cioè tutte le lingue, tutte le culture debbono essere veicolo di incarnazione. Quando cominciamo a fare questo sì, questo no, questo è sacro, questo non è sacro, mi pare che si perda di vista il verbo che si fa carne. Ma sono d'accordo anch'io, perché poi in realtà nessuno ha mai obbligato nessuno a diventare altro da quello che poi nel momento in cui incontra Cristo dovrebbe essere. Poi tra l'altro un'altra domanda un po' provocatoria, perché nel tuo libro Parola fatta canto, riflessioni su musica e liturgia, tu ricordi la settimana santa del 1770 con Wolfgang Amadeus Mozart, diciamo sì, in visita a Roma. E ricordi anche una consuetudine che poi faceva parte del grand tour dei grandi, anche non cattolici, come gli inglesi che venivano a Roma fortemente convinti di venire nella Babilonia dei papisti, insomma, i tedeschi che fermamente Goethe che veniva a Roma, convinto di, appunto, siamo proprio Babilonia, ma qualcosa di molto simile, una grande prostituta, però venivano a Roma perché c'era un giorno, la Settimana Santa, il mercoledì, quando in San Pietro la Cappella Sistina cantava il Miserere di Allegri. Ed era un'occasione per venire a Roma solo per sentire nelle penombre, perché era l'ufficio delle tenebre del mattino. Sì, sì, fatto in penombra, c'era tutta quell'atmosfera. Ma io penso che sia più un discorso di atmosfera, che era in certo modo anche lugubre, sia più un discorso di atmosfera che non un discorso prettamente musicale. Sì, anche musicale, ma il musicale calato in quell'atmosfera, con quei riti, con quei vestimenti, con quel buio, perché si faceva quasi tutto al buio, tant'è che i cantori dovevano impararlo a memoria, quel miserere, non avevano la carta in mano, perché appunto c'era questo buio, queste tenebre, eccetera, eccetera. Quindi non è soltanto, penso, un discorso, non era un discorso puramente musicale. È chiaro che Mozart capta quel momento musicale e lo trascrive. Sì, erano, diciamo così, anche molto scenografici, perché appunto la chiesa, la basilica era nella penombra, c'era solo un triangolo con delle candele che venivano successivamente spente ogni volta che si cantava un salmo penitenziale, e poi partiva questo profondissimo lamento. Però, diciamo così, uno usciva dalla chiesa pieno di timore di Dio, pensando a come si spegnesse la vita. In realtà oggi spetta anche, diciamo così, alla musica sacra affrontare questa specie di deserto di atmosfere, perché con i fari accesi, sparati, tipo supermercato, e diciamo le candele quasi scomparse. Già. C'è una musica sacra che ha ancora, per così dire, diritto di cittadinanza? Lei come spiega quel grande boom di una certa musica gregoriana cantata magari con dei toni anche un po' in dissolvenza, con... quella è stata la grande novità anche del mercato discografico qualche anno fa. Ma quando ci sono queste realtà, penso che siano più questioni di moda che non questioni di comprensione di ciò che c'è. Tant'è che ogni tanto mi dicono, faccio alcune, le polifonie, le più ardue, le più classiche, le più contemporanee, che erano belle quelle musiche gregoriane, cioè hanno confuso, cioè non hanno capito niente cos'è, cioè per gregoriano intendono tutto ciò che si fa di musicale, di alto livello nelle celebrazioni. Lei scrive anche nel suo libro qualcosa, parola che si fa canto, lo ripeto, è un libro, riflessioni su musica e liturgia, appena edito per la libreria editrice Vaticana, una specie di testo riassuntivo donato ai padri che hanno partecipato al recente sinodo dei Vescovi. Lei dice, afferma, che il cristianesimo sembra quasi preposto geneticamente nel generare nel canto e nella musica il riflesso coerente con la sua qualità spirituale. Cioè, in fondo, in realtà, se noi dovessimo riflettere su questa categoria, sulla qualità musicale dei nostri canti liturgici, dovremmo trarre delle conclusioni terribili. No, bisogna qui distinguere, perché se non si distingue si rischia soltanto di fare polemiche e basta. Oggi appunto c'è un canto che realmente è espressione dell'incarnazione del mistero, della celebrazione del mistero, ma c'è anche un canto che realmente non è veicolo di quel messaggio, di quel mistero, di quel che si celebra. Quindi talvolta, intanto, tutto ciò che non è arte non può assolutamente essere veicolo del trascendente. Io vorrei che lei ci dicesse in chiusura cosa ha provato il giorno in cui ha sentito il papissimo, il nostro Giovanni Paolo II, concludere il grande giubileo del 2000, ripeto, di cui non ricordo un canto, con una nota di ottimismo, perché con le parole di Agostino ha detto alla Chiesa: Chiesa canta e cammina. Cioè, poteva dire altro, canta e cammina. Cosa ha pensato il musicista, il direttore della Cappella Sistina, a sentire questo invito del Papa Giovanni Paolo II? Intanto Agostino ha questa bellissima frase, quindi citata, canta e cammina. Vorrei, ecco, pensare anche a quanto mi dice Benedetto XVI nell'ultimo incontro che abbiamo avuto nella Cappella Sistina. Ogni anno il Santo Padre ci invita nella Cappella Sistina perché vuole offrire un concerto, anche se mini concerto, della Cappella Sistina al suo fratello Georgo, che si trova lì per quei giorni di Natale. E quest'anno, alla fine del concerto, io ho fatto due canti popolari: Tu scendi dalle stelle e Astro del ciel. Le ho elaborate in forma un po' molto moderna, eccetera, con organo che accompagna, che dialoga con il coro, eccetera. E poi alla fine mi sono sentito un po' in colpa nella Cappella Sistina a fare Tu scendi dalle stelle e Astro del ciel. E quindi dico al Santo Padre: Santità, mi deve scusare se ho fatto queste due canti popolari. E lui: ma di là nasce la musica. Dico: ma l'ho elaborato io, ho visto un po' molto moderno, molto eccetera, eccetera. Ma la musica deve andare avanti. Ecco, canta e cammina. Grazie, Monsignor Giuseppe Di Berto, maestro della Cappella Sistina, nostra guida questa settimana. E naturalmente chiedo scusa per il tono un po' leggero, ma siamo amici, ma siamo... seppure sentito. Grazie a voi che continuate a seguirci, e grazie a Gloria Guerrera e a Valerio Rocchetti, i nostri aiuti anche in questa puntata così un po' spumeggiante. Risentirci la settimana prossima.